dopo esserci occupati nei giorni scorsi e di studi e analisi del testo della religion, dopo esserci occupati ancora del problema di Kant e la religione vista nel suo secolo, domani mattina e oggi pomeriggio affronteremo il tema della recezione e delle influenze che ha avuto la filosofia kantiana della religione. La relazione introduttiva, come sapete, sarà tenuta dal professor Claudio Cesa, poi parleranno i professori Neufeld e Ivaldo e avremo la comunicazione della dottoressa Graziella Rotta. Compito, credo, di un buon presentatore è quello di parlare poco e di far parlare molto gli altri. Quindi spero di essere breve, succinto e di non perdere tempo prezioso. Se un presentatore chi presiede perde tempo, evidentemente compie un peccato, diciamo peccato veniale. Nel caso di chi mi parla il peccato è mortale, perché ho parlato non poco nei giorni passati e speriamo che il male radicale che ho dentro di me, questo male radicale, non appaia alla superficie. Quindi passo subito a presentare il professor Cesa, professore alla Scuola Normale Superiore di Pisa, noto studioso della filosofia dell'Ottocento, tedesca dell'Ottocento, basti ricordare i suoi lavori su Feuerbach. Ecco, la sua revisione della traduzione della logica di Hegel fatta dal mio conterraneo Arturo Moni di Bagni di Lucca, quindi preme ricordare anche questa traduzione, la traduzione italiana di quest'opera hegeliana fatta da un lucchese, e soprattutto poi i suoi studi su Fichte. Come ricordava il professor Roger, mi piace ricordare anche i contributi che il professor Cesa dà alla problematica kantiana, in maniera particolare al pensiero politico e devo dire anche alla rivista. Se il bollettino bibliografico ha dei pregi, i meriti maggiori non sono miei ma sono del professor Cesa, perché si è assunto un onere di lavoro direi piuttosto complesso che finora mi pare che sia stato portato a termine, così almeno mi dicono i colleghi, in maniera soddisfacente. Mi taccio subito e do la parola al professor Cesa. Grazie. Ringrazio molto l'Istituto di Scienze Religiose di Trento per l'invito che mi aveva fatto di tenere una relazione in questo convegno e direi lo ringrazio anche per il tema che mi ha proposto, tema estremamente complesso sul quale non esiste che io sappia una letteratura secondaria ordinata e lo dico per scusare l'andamento rapsodico e pieno di lacune della mia relazione. Se posso fare un'osservazione preliminare anche per spiegare il taglio che ho tentato di dare alla mia relazione, è che la difficoltà di delineare una storia attendibile della influenza esercitata dal libro di Kant sulla religione ha la sua radice in due motivi fondamentali. Il primo è che della teoria della religione o della filosofia della religione di Kant era possibile e di fatto è stato possibile dare un'esposizione in base alle prime due critiche, magari integrate dai paragrafi finali della terza, cioè all'ingrosso sulla base degli scritti pubblicati tra l'81 e il 90. Il che ha recato con sé che il libro sulla religione venisse letto e discusso da chi aveva già una propria idea della teoria di Kant sull'argomento. Ci fu chi credeva di segnalare in esso grosse novità e chi volle vedere soltanto specificazioni che il carattere strettamente filosofico delle opere precedenti non aveva offerto l'occasione di dare. Ma a nessuno venne in mente di considerare quel libro l'unica fonte della religione di Kant. L'influenza del libro non si può distinguere, insomma, da quella di altre significative parti del sistema kantiano. La critica delle prove dell'esistenza di Dio nella dialettica trascendentale, il grande capitolo sul canone della ragion pura, la dottrina dei postulati della ragione pratica. Il secondo motivo pare, a prima vista, del tutto opposto al primo, ed è che temi specifici del libro del 1793, richiamo soltanto la questione della rivelazione, l'interpretazione morale dei dogmi, la dottrina della Chiesa, il problema del male, sono stati oggetto di lunghe discussioni, ma, se è lecito dire, ciascuno per proprio conto. È evidente che si sa che sono temi trattati da Kant, ma essi vengono spesso riassorbiti nei tempi lunghi di ciascuno di essi. Non si ha l'impressione che facciano costitutivamente parte del sistema, anche perché si percepisce la difficoltà di armonizzare una teoria pura della ragione con un'antropologia simile a quella proposta da Kant. Ancora Feuerbach, nel 1839, si leverà contro la contraddizione di Kant di aver, cito, concepito ed esposto in modo errato i limiti, Grenzen, affermativi e razionali della ragione. Egli li aveva intesi, infatti, come termini, Schranken, e continuava. I termini, Schranken, sono limiti arbitrari che non dovrebbero esserci, che vanno tolti. È un argomento classico che qui può essere solamente accennato, ma che, nella sua dimensione teorica, va tenuto presente per rendersi conto del perché sia diventato così presto un luogo comune il programma di andare oltre Kant anche in ambito religioso. A tentare una periodizzazione grossolana, si può dire che il periodo nel quale la religione, il libro, ora quando dico religione intendo quasi sempre il libro, venne letta come integrazione o specificazione della filosofia teoretica e pratica di Kant, ha come termine ad quem il 1799. Lo ateismus streit fu fatale non solamente a Fichte e al gruppo dei kantiani di Jena, ma anche alla religione di Kant, che si trovava di fatto coinvolta in un conflitto del quale essa non era la protagonista principale. Tanto più che pochi anni o addirittura pochi mesi dopo, la discussione filosofica diventerà un vero bellum omnium contra omnes. Fichte e Schelling contro Bardili, Reinhold contro Fichte e Schelling, che rispondono e lo annichiliscono. Poi dottrina della scienza contro filosofia della natura e dell'identità. All'inizio del nuovo secolo, il criticismo pare già una posizione superata. E il fatto che proprio in questi anni, e ancora in seguito e a lungo, elementi importanti dell'etica e della religione di Kant entrino nei manuali universitari di area protestante ma anche di area cattolica, è fenomeno interessante per la storia dell'insegnamento universitario. Avremo poi una relazione su questo tema. Vorrei rimandare soltanto ai libri che ho citato nella mia traccia, oltre a quello di Flügge, quello di Diebold e quello di Casula, che meritano ancora seriamente di essere letti. È fenomeno interessante per la ricostruzione della mentalità della borghesia colta tedesca, che rimase sempre dipendente largamente dalla cultura dell'Aufklärung, ma la storia grande della filosofia ha un altro percorso. I razionalisti teologici dell'Ottocento, erano ben consapevoli di essere la continuazione dell'Aufklärung, o almeno ritenevano di essere i depositari di uno stile mentale che andava difeso contro lo scolasticismo e il misticismo che si vedevano all'opera nella filosofia speculativa. E Kant era spesso invocato da loro come il filosofo e il grande filosofo che aveva dato la base concettuale per una teologia razionale. È una valutazione che anche nel nostro secolo è stata ripetuta e ben argomentata da storici illustri della teologia, da Karl Barth a Immanuel Hirsch, ed è forse opportuno, prima di procedere, fermarsi un istante su questo punto per guadagnare elementi che possono poi sostenere l'esposizione successiva. che il programma di costruire una dottrina della religione sulla base della filosofia critica corrispondesse a un bisogno reale della cultura contemporanea è difficile negare. Anche a non voler insistere troppo sul disprezzo col quale, a detta di Schleiermacher, le persone colte guardavano chi professasse religione, si sentiva tutto il peso degli argomenti, parlo della seconda metà del Settecento, degli argomenti dei naturalisti e dei deisti. E già prima di Kant la salvezza era stata cercata verso una concezione semplicemente morale della religione. Basta aprire il libro di Jakob Salomon Semler del 1786, Über historische, gesellschaftliche und moralische Religion der Christen, per trovare dichiarato il proposito di voler dare un contributo, cito, alla religione pratica, benefica per tutti, dei cristiani di tutti i partiti. Anche se Semler non riteneva che si potesse compilare e introdurre una unica formula di religione pratica. Pur andando vicinissimo all'interpretazione morale del dogma del peccato originale della grazia, Semler esitava a tirare questa conseguenza estrema, perché, egli spiegava fin dall'inizio, c'erano sempre state due classi, e gli dice proprio così, classen, di credenti, gli uni attaccati a una religione storica, gli altri convinti del primato della moralità. E tra questi andava annoverato anche chi, propriamente parlando, non faceva parte dei seguaci di Gesù. L'esempio, del resto classico, era quello del centurione evangelico. A entrambe queste classi non si poteva negare di avere una coscienza cristiana. L'esito un po' paradossale di questa concezione era, malgrado tutta la simpatia di Semler per il cristianesimo morale, la inevitabilità della persistenza della forma storica di esso. La legittimità di entrambe le forme stava nel loro essere gemeinnützlich, una parola che ricorre spessissimo nella letteratura dell'epoca con caratterizzazione positiva. Non sarebbe giusto intenderla in senso utilitaristico, ma essa indica che ci si preoccupa più della ricaduta esteriore sulle forme di comportamento della religione che non delle motivazioni interiori, quelle sottratte ad ogni discussione. Se, dopo aver letto Semler, si scorrono le... Mi devo scusare, ma il parlare in pubblico ha su me tali reazioni nervose che mi si secca continuamente la bocca, quindi ecco, no, abbiate pazienza. Si scorrono le lettere sulla filosofia kantiana di Reinhold, quelle che ci interessano furono pubblicate nel 1787 e nella versione definitiva nel 1790, ci si renderà facilmente conto di come si sia modificata la prospettiva. La ragion pratica consente a tutti, dotti e indotti, di convincersi dell'esistenza di un Dio morale, di quel Dio di cui la storia delle religioni mostra che tutti i popoli hanno avuto una qualche concezione. Il sistema di Kant consente di portare a compimento quel processo che aveva avuto il suo inizio con il cristianesimo. Gesù Cristo, infatti, aveva trovato, tra la maggior parte dei suoi contemporanei, cito, religione senza morale, e in un paio di sette filosofiche, morale senza religione. Il suo programma era stato la riunificazione, Vereinigung, di ragione e cuore, e ciò proponeva anche la filosofia kantiana, seppure con un percorso inverso. Mentre il cristianesimo, cito, ha condotto dalla religione alla morale mediante la via del cuore, adesso la filosofia deve ricondurre dalla morale alla religione mediante la via della ragione. Fine della citazione. E con una formulazione non priva di efficacia, così Reinhold condensava la sua tesi. La religione storica è fondata sul sentimento. Essa è gravata dai sogni della sensibilità, Träume der Sinnlichkeit. Fa forza sulla tradizione, esclude la ragione. La religione filosofica, quella del teista conseguente, si basa invece sulle regole della ragione. È tutta speculativa, senza collegamento con la morale quotidiana, senza interesse per il cuore. Suo esito è l'irreligiosità. La religione morale, infine, cerca l'unione delle due precedenti. Con la pura morale della ragione dissipa l'oscurità, das Dunkel, della religione storica e scioglie il ghiaccio, la Frostigkeit, della religione filosofica. Quella di Gesù era stato l'Evangelo del cuore puro. Quello di Kant è l'Evangelo della pura ragione, che garantirà alla religione pura quella stessa diffusione che il puro nucleo dottrinale, così intendo l'Erbegriff cristiano, ha procurato alla morale. È la proclamazione dello Evangelo kantiano. No, e di recente è uscito un libro, curato tra l'altro dal nostro collega Hinske, proprio su questo argomento. L'Evangelo kantiano che supera il cristianesimo storico, così come ogni forma di religione storica, e che pone a base della convinzione religiosa la fede morale. Dalla trattazione di Reinhold, retoricamente molto ben costruita, si possono ricavare almeno tre risultati. Il primo è la sinonimia, o addirittura l'identificazione, di fede pratica con religione. Il secondo è che la religione, nel senso che si è detto, è una sorta di struttura intermedia tra la legge della ragione e la massima morale. L'insistenza di Reinhold sul cuore, che del resto è un motivo diffusissimo negli ultimi decenni del Settecento, propone l'esigenza di una armonizzazione delle facoltà onde l'uomo si trovi soddisfatto del suo comportamento morale. Il terzo è il cristianesimo, ma soltanto della dottrina di quel Gesù il cui insegnamento era stato poi deformato dall'aggiunzione di speculazioni platoniche e di norme disciplinari. Quando Reinhold tocca del peccato originale, si libera immediatamente del problema come se fosse una cosa completamente insignificante. Ebbene, il libro di Kant metteva in crisi questa soluzione. La rivelazione cristiana, dopo aver messo da parte tutto ciò che è empirico, poteva essere considerata la religione. La quale religione non era quindi nuova, come quella annunziata da Reinhold, anche se era nuova l'interpretazione morale che gli veniva data. Non sorprende che molti contemporanei vi colsero il tentativo di salvare una dogmatica screditata e che molti teologi vi cercarono invece argomenti contro i critici del dogma. Il capo riconosciuto del soprannaturalismo tubinghese, Gottlob Christian Storr, si compiaceva del fatto che il criticus philosophus nullum sibi judicium arrogat sugli enunciati della rivelazione. Anzi, la riconosciuta imbecillitas humana, cioè i limiti della ragione teoretica, imponeva di accettare il soccorso divino. La pura ragione senza rivelazione sarebbe rimasta vuota. Risultati simili, cioè osservazioni simili, dall'altro capo della Germania, in Sassonia, faceva Franz Volkmar Reinhardt. Non sarebbe giusto ritenere che i critici teologici di Kant fossero soltanto interessati ad una difesa d'ufficio della loro attività professionale. Il tema in discussione era niente meno che la sopravvivenza del cristianesimo come sistema specifico di dottrine che non doveva di volta in volta ricevere la propria legittimità dalla filosofia in auge. E, a seconda della risposta che si dava, scaturiva anche un'immagine diversa della storia della religione e, attraverso questa, della storia dell'umanità. Questo motivo, proprio nell'ultimo decennio del Settecento, si caricò di una tensione che prima non aveva avuto, per effetto della Rivoluzione francese e delle attese e dei terrori che essa stava suscitando in tutta Europa. A livello politico il conflitto non è soltanto tra reazione e rivoluzione, c'è anche quello tra i diritti nella loro dimensione individuale e il momento della fusione delle volontà private in un entusiasmo collettivo. E si sa che quest'ultimo era ricercato e indotto in cerimonie e feste nelle quali politica e religione si trovavano congiunte. Tutto questo non aveva a che fare, non poteva avere a che fare con una religione razionale, tanto più che era comunemente accettato il luogo comune della religione antica, politeistica, come religione pubblica o politica, e della religione morale, quella coltivata dagli spiriti illuminati del mondo antico e poi predicata da Gesù come religione privata. Era questo un vantaggio o un difetto per il cristianesimo? Che fosse un difetto lo avevano detto sia Machiavelli che poco prima Rousseau. Ma ripeterlo negli stessi termini di Machiavelli e di Rousseau non era facile per una cultura abituata a vedere lo Stato come autorità esteriore contro cui andava tutelata la coscienza individuale. Era dalle esigenze di quest'ultima, semmai, che si doveva partire per misurare in qual misura la ragionevolezza della filosofia presente fosse in grado di soddisfare tutto l'uomo. E di qui che germina la prima insoddisfazione per la soluzione kantiana di una religione tutta morale e individuale e conciliata con il cristianesimo. A scorrere i documenti biografici e gli epistolari dei giovani dello Stift di Tübingen si può trovare ben illustrata la tematica a cui facevo cenno. Il libro sulla religione suscita grande impressione. Nel dicembre 1794 Hegel scrive a Schelling che, cito, soltanto col tempo diventerà chiara la sua importanza epocale. Schelling aveva citato nel suo primo scritto a stampa, settembre 1792, l'articolo sul male radicale. E in un rapporto dei Repetenten di un paio di anni dopo si segnalava il magister Schelling come colui che aveva dato il tono di allegorizzare al modo kantiano su testi di contenuto positivo. Fine della citazione. Anche il famoso motto Reich Gottes che Hölderlin usa in una lettera a Hegel è quasi certamente derivato da Kant. Credo sia perfettamente inutile invocare sempre il pietismo svevo. Bisogna però precisare che Kant è ammirato soprattutto per aver negato. Kant ha fatto piazza pulita. Kant hat alles weggeräumt, scrive Schelling a Hegel. Se si deve cercare un modello positivo, ci si appella invece a Lessing. Il Lessing, tramite Jacobi, degli Spinoza Briefe. Un Lessing che avrebbe intuito, cito, la necessità di infinite religioni, come poco dopo dice Friedrich Schlegel. E negli scritti dei tubinghesi compare puntualmente l'auspicio di una nuova mitologia. Anche per noi, come per Lessing, scrive Schelling a Hegel, i concetti ortodossi di Dio non significano più niente. Mentre Reinhold deplorava che Jacobi e Mendelssohn non avessero letto bene Kant, e se lo avessero fatto, gli diceva, la loro polemica non avrebbe avuto luogo, per Schelling è ovvio che, cito, si debba andare ben oltre un ente personale. Attraverso Lessing la scelta è per una filosofia dell'incondizionato, cioè per uno spinozismo visto come alternativa all'uso teistico dei postulati pratici. È evidente che Schelling ammira la ragion pratica tubinghese, come egli dice, ma non è soltanto questo. Nel fondo del suo pensiero c'è una ribellione anticristiana che lo allontana rapidamente da Kant. E lo stesso vale anche per Hegel. Questi, si sa, evitava inizialmente di occuparsi di filosofia teoretica ed è forse per questo che si occupò così a lungo della tematica religiosa e che scrisse sulle orme di Kant, quasi con le sue parole, Una vita di Gesù. Eppure colpisce l'insistenza con la quale contrappone la tristezza del cristianesimo alla gioiosità greca. Anche Kant, ben inteso, come tutto l'illuminismo, aveva criticato le cosiddette virtù monastiche che vogliono sottrarre l'uomo al mondo, ma in Hegel c'è altro, c'è il tentativo attraverso Gesù di uscire da una morale imperativa. Per servirsi di una formula, per Hegel la sciagura dell'insegnamento cristiano sarebbe stata di essere formalizzato prima in una religione statutaria, poi appunto in una morale imperativa, quella di Kant. Non si può certo seguire le riflessioni di Hegel sulla religione, si deve però rilevare che, nelle sue critiche alla filosofia kantfichtiana dei primissimi anni del secolo, il libro sulla religione non viene più citato, e sì che le occasioni non sarebbero mancate. C'è peraltro una constatazione significativa nell'esordio di Glauben und Wissen. Cito: Kant, con il suo tentativo di rivitalizzare la forma positiva della religione, attribuendole un significato derivante dalla sua filosofia, non ha avuto successo. Fine della citazione. E di questo fallimento ci sono due spiegazioni. Una è esterna a Kant, ed è la superbia della Aufklärende Vernunft nei confronti di ogni positivo. Ma l'altra è la debolezza della ragione teoretica, che rinunzia, cito, auf das Selbstzeugen des Sohnes aus sich, che rinunzia a generare il figlio, all'autogenerazione del figlio da sé. Cioè la ragione di Kant è soltanto, come è detto nella fenomenologia, eine beobachtende Vernunft, no, una ragione che osserva, non una ragione che crea, e questa è appunto la sua debolezza. Schelling, per parte sua, non dirà una parola sulla religione nell'articolo in commemorazione di Kant che scrisse nel 1804. Erano bastati meno di 10 anni perché il tentativo kantiano di conciliare filosofia e cristianesimo venisse, almeno in questo ambiente, considerato come filosoficamente del tutto fallito. A questo risultato si era arrivati, ben inteso, per tutta una serie di polemiche. Gli articoli del giornale filosofico di Fichte e Mittammer, che attaccavano non soltanto i soprannaturalisti, ma anche i kantiani moderati. Schelling, in un articolo di quella rivista, rifiutava esplicitamente la rivelazione come sussidio della moralità, dichiarava anzi che essa, la rivelazione, doveva sparire del tutto dal sistema dei concetti. Pochi mesi dopo incominciò lo ateismus streit. Ebbene, proprio questo, sul quale non mi soffermo perché c'è una relazione speciale, fu l'occasione di alcuni bilanci sulla filosofia kantiana della religione che meritano di essere menzionati. Nel 1799 Carl Friedrich Staudlin, il professore di Gottinga cui Kant aveva dedicato il conflitto delle facoltà, pubblicò sulla sua rivista I Beiträge zur Philosophie und Geschichte der Religion und Sittenlehre un ampio saggio pieno di simpatia per Kant. Quale filosofia, egli si chiedeva, aveva mostrato più rispetto per il concetto di rivelazione? Anzi, la filosofia critica aveva trovato il punto di mediazione tra se stessa e il soprannaturalismo, cito, presupponendo la possibilità, anzi la realtà, di una rivelazione divina e interpretandola in senso puramente morale e religioso. Eppure, la libertà spirituale, la sincerità, l'imparzialità di Kant, se per un momento si erano imposte ai partiti estremi, da ultimo non ne avevano soddisfatto nessuno. Cito, gli ortodossi trovavano tutti i loro dogmi esposti e presi in considerazione, ma spiegati come se la ragione avrebbe potuto arrivarvi anche da sola e senza che vi restasse più niente di misterioso. Fine della citazione. Gli altri si accorgevano che certe dottrine, da un pezzo relegate tra le idee storicamente contingenti ed escluse dal nucleo della religione, cito, qui trovavano un riconoscimento in base ai principi della ragione e ricevevano un alto significato. Fine della citazione. La posizione di Kant sembrava screditata inoltre dai conflitti tra i suoi stessi seguaci. Nuova citazione. Dopo che la filosofia critica si diffuse, nel mondo filosofico tutto è entrato in fermento, come in una situazione rivoluzionaria, e c'è tutto un susseguirsi di nuove rivoluzioni e di tentativi di rivoluzioni. Fine della citazione. C'è sicuramente dell'ironia nell'uso di questo linguaggio, e del resto Staudlin osservava che dall'attrito di animi e di pensieri si poteva prevedere un guadagno per quella che egli chiama la Geisteskultur. Ma intanto la conciliazione non era riuscita. Di tutt'altro tono il saggio, in forma epistolare, apparso nello stesso anno nel Magazin für Christliche Dogmatik und Moral. Autore Karl Christian Flatt, fratello del più noto Johann Friedrich Flatt. Flatt osservava che le polemiche degli ultimi mesi avevano gettato sospetti sull'autentica intenzione di Kant. Non era forse significativo che Forberg avesse adoperato certe formule kantiane, Non era possibile che egli avesse perfettamente compreso ciò che Kant aveva inteso, ma non detto. L'insinuazione era poi ritirata, ma restava che erano stati dei kantiani a trarre certe conclusioni dalle premesse del maestro. E il saggio si concludeva con una citazione da Jacobi, che aveva criticato le premesse teoretiche sia di Kant che di Fichte. L'accostamento aveva un chiarissimo significato, vero? E la tesi di una sostanziale affinità tra Kant e Fichte quanto ai risultati era avanzata anche da un amico e seguace di Jacobi, Friedrich Köppen, nella prefazione 1802 alla seconda edizione del suo libro Über Offenbarung in Beziehung auf Kantische und Fichtische Philosophie, e gli tirava questo bilancio abbastanza divertente. Quando l'edificio kantiano cominciò a vacillare, esso era stato appena sistemato ad alloggio per teologi. Non era necessaria una gran capacità divinatoria per accorgersi che presto avrebbe costretto i suoi inquilini alla fuga. Questo è in parte già successo e viviamo tutti a cielo aperto. Su questa constatazione, come si è visto, pareva proprio che tutti, speculativi e antispeculativi, fossero perfettamente d'accordo. È chiaro che la fortuna o l'influenza del libro di Kant non può essere misurata in base a bilanci come questi, di tono un poco giornalistico. C'è tutta un'altra storia della ricezione di specifiche dottrine. Un notevole successo ebbe l'interpretazione morale dei dogmi, che venne però subito criticata dagli specialisti. Ieri abbiamo sentito la relazione di D'Alessandro. Filosoficamente molto più rilevante è la rielaborazione del problema del male sul quale tanto si è discusso in questo convegno. Sappiamo che questa dottrina in Kant aveva una storia lunga e lo sappiamo noi, ma per i contemporanei l'aspetto sconvolgente fu che il male andava ricercato nella stessa libertà, il che sembrava in contrasto con ciò che essi avevano ricavato dalla lettura degli scritti kantiani, che la fonte del male fossero le inclinazioni sensibili o che il male fosse di casa nella Willkür e non nella Freiheit, la quale invece è l'identificazione con la ragione. Per carità, non voglio entrare in questo problema, ma era chiaro che una volta che la possibilità del male si ritrovava nell'apice della libertà, nel momento della scelta, si apriva un ambito di discussione completamente nuovo. Su questo punto Fichte si soffermò a lungo. Ma non fosse che per ragioni cronologiche, bisogna far cenno prima a Schelling. La dissertazione che egli giovanissimo dedicò a questo tema, non la cito, il titolo latino lunghissimo, è uno straordinario, comunque si trova all'inizio di tutte le edizioni complete delle opere di Schelling, è uno straordinario pezzo di bravura di uno studente che aveva già letto tutto e che citava con la stessa disinvoltura le fonti antiche e la letteratura contemporanea. Schelling giocava abilmente sul racconto biblico, sulla ratio boni, che poi non è altro che lo eretis sicut deus evidentemente, vero? E spiegava che fu la stessa ragione a spingere alla trasgressione, perché è difficile in una fase iniziale distinguere il bene dal male, e giustificava la trasgressione con lo svolgimento stesso della civiltà che ci avrebbe condotto ad anc altitudinem. Egli citava spesso Kant, non solamente l'articolo della Monat Schrift, ma anche il Mutmaßlicher Anfang, ma sotto l'apparente vicinanza di tanti passi kantiani c'era una differenza di fondo, che mentre Kant, nei due scritti che ho citato, richiamava l'uomo seriamente alla propria responsabilità, Schelling poneva l'accento sull'avventura esaltante della libertà. E nelle lettere filosofiche del 95 questo aspetto viene alla luce anche più energicamente. È la stessa legge morale a presupporre il concetto di bene accanto a quello di male. L'obiettivo non è la Seligkeit, che ispira anzi infinita noia, bensì l'illimitata attività o addirittura la lotta contro il destino sul modello degli eroi della tragedia antica. La pena che si abbatte su chi ha violato la legge è un onore reso alla sua libertà. In seguito il tono di Schelling cambia, viene corretto un linguaggio che negli ultimissimi anni del Settecento era ispirato a un ateismo vitalistico quasi lucreziano. Anche per Schelling l'introduzione della figura di spirito accanto a quello di natura implicò una più pacata considerazione di quello che gli disse lo Ehrlicher Weg Kants, no? L'onesto cammino battuto da Kant. E nel celebre scritto del 1809, su cui aveva già richiamato ieri l'attenzione il professor Malter, sull'essenza della libertà umana, si può cogliere un confronto meditato con Kant, e in particolare sul punto che il male sia precedente a ogni atto che cade nella sfera sensibile. Kant non manca di, e dico Schelling, non manca di registrare, lo aveva detto del resto anche Fichte, cioè io sono abbastanza convinto che questo confronto di Schelling con Kant passa attraverso il paragrafo sedicesimo della Sittenlehre di Fichte, che Kant era arrivato a quella teoria attraverso Durch bloße Treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urteils, attraverso una semplice fedele osservazione dei fenomeni del giudizio morale, senza essersi innalzato a quel livello speculativo cui Schelling aspirava. Il che voleva dire che Schelling non lo considerava più un vero interlocutore, che erano invece Platone, Spinoza, Bohme, Leibniz e tra i contemporanei Bader. La scelta necessaria per il male e per la libertà si mescolavano quasi indissolubilmente. Sono il problema metafisico della finitezza. E con questo siamo risospinti indietro verso Fichte. La sua trattazione esplicita del tema del male viene svolta, l'ho detto, nella Sittenlehre 98 e prima nella Vorlesung über die Moral 1796. Quando invece Fichte scriverà una Religionslehre, la Anweisung 1806, il tema non viene trattato direttamente. Verrebbe da dire che questa collocazione del problema è una consapevole riduzione della religione di Kant, alla morale, nello spirito del primo criticismo. Ma questo modo di esprimersi forse è improprio se si tiene presente che nella Wissenschaftslehre Nova Metodo, concepita quasi contemporaneamente alla Sittenlehre, Fichte espone una sua teoria del regno degli spiriti o del mondo intelligibile. Secondo la sua intenzione, si sarebbe avuto così, spiegando la cooperazione degli spiriti finiti alla costituzione di un mondo razionale, la sintesi superiore, il punto di arrivo del sistema. «Quando mi accinsi a fare questa sintesi, si gridò all'ateismo», scrisse Fichte a Schelling in una lettera famosa. Mondo intelligibile, nel linguaggio dell'ultimo Kant, designa il mondo morale, e Fichte ovviamente lo sapeva. Ma per lui esso è il punto di incontro di sostanzialità e causalità, punto di arrivo, ma anche base metafisica, essere, e del resto poco dopo Fichte lo chiamerà proprio così. La religione viene riportata a morale, insomma, non per eliminare la metafisica, ma per mostrare come la stessa morale, quella di cui parla Fichte, sia un preambulum metafisice. E viene da pensare che lo scopo di questo paragrafo fichtiano sia inverso a quello di Kant, sia di togliere alla discussione sul male lo sfondo teologico che Kant sembrava avervi introdotto, toglierlo per rendere possibile l'introduzione di una dimensione metafisica. Ometto altri riferimenti a Fichte per non portare via troppo tempo. Si sono toccati finora i cosiddetti idealisti, ma Kant è una presenza decisiva nella formazione del pensiero di Schleiermacher. Fin dai suoi primi abbozzi, quelli pubblicati da Diltay come Denkmale, si coglie il confronto con la morale kantiana, e Diltay del resto l'ho già notato più volte. Tanto più sorprendente la relativa indifferenza del giovane teologo nei confronti del libro sulla religione, malgrado il padre, anche lui pastore, lo sollecitasse in due lettere, non si decideva a leggerlo e non lo aveva ancora fatto nel maggio 1794, cioè a oltre un anno di distanza dalla pubblicazione. Ma il curioso è che anche in seguito questo libro non è mai oggetto di un confronto esplicito e i numerosissimi riferimenti ad esso possono venire colti soltanto in base a spie terminologiche o concettuali. Intendiamoci, Schleiermacher non cita quasi mai, vero? E quindi questo non è un trattamento speciale, però esso indica la difficoltà, no? Indica la difficoltà di reperire i passi che possono interessarci. Prendiamo ad esempio, come del resto inevitabile, le Reden über die Religion. Proprio in apertura ci si imbatte nell'affermazione che, cito, tutti hanno sempre detto di avere una fede, ma soltanto pochi hanno compreso cosa voglia dire avere religione, che è proprio la parafrasi di un luogo della religione di Kant. Ma altri passi hanno piuttosto un senso polemico. La lode di Spinoza, non per la sua moralità, ma per la sua religione. L'indicare nell'universo e non nell'umanità il termine di riferimento più alto. La polemica contro la morale, che ha reverenza soltanto per la propria legge e che condanna come egoistico tutto ciò che si fa per pietà o per gratitudine. Ben consapevole ed evidente la contrapposizione proprio sul tema religione. La religione che per Schleiermacher non consiste nel buon comportamento morale o nel considerare i nostri doveri come comandi di Dio, bensì nel senso e gusto per l'infinito. Ancora, viene respinta l'idea di un mondo ordinato come prova dell'esistenza di Dio e si nega che avere religione significhi credere in Dio e nell'immortalità. Non sarebbe difficile far corrispondere a ciascuna di queste negazioni un'affermazione kantiana. Sul tema della preghiera, no, tutti sappiamo che cosa ha scritto Kant. Schleiermacher ha scritto nel 6 una predica bellissima, no, sui vantaggi della preghiera, no, che è tutta, si può leggere anche tutta come una polemica indiretta contro ciò che Kant aveva affermato. La stessa situazione nel celebre corso di lezioni di Schleiermacher sulla vita di Gesù, tenuto la prima volta nel 1819, ripetuto altre due volte, pubblicato postumo nel 1864. Non vi si trova mai il nome di Kant, ma ci si imbatte in tutta una serie di enunciati significativi. Laddove Kant aveva messo in guardia dal pensare come sovraumano l'uomo gradito a Dio, Schleiermacher invita a riconoscere in tutti, e non solamente in Gesù, la presenza dell'umano e del divino. Qui la diversità potrebbe essere superata con qualche capriola dialettica, ma la diversità è davvero invalicabile laddove si arriva a parlare di regno di Dio, inteso per Schleiermacher come sublimazione della comunità, come organismo. Adesso può venir dato il nome di teocrazia, no? Espressione che Kant non amava particolarmente. Nella Glaubenslehre Kant è appena citato. Di questa grande opera vorrei ricordare soltanto l'uso di Frömmigkeit. Per Kant esso designa un atteggiamento passivo che può essere redento soltanto se unito con la virtù, cioè con l'energica applicazione delle proprie forze per adempiere al dovere. Per Schleiermacher il termine e l'atteggiamento che esso designa ha un senso del tutto positivo ed esprime anzi l'essenza della religione, la quale è eine fromme Erhebung des Gemüts, una pia elevazione dell'animo. Si potrebbe essere tentati di dire che l'abbondanza degli accenni polemici è una prova della permanente presenza di Kant. Ma non sarei sicuro che questo sia esatto. Non tanto per la consapevolezza di una radicale distinzione tra religione e filosofia, quanto perché le considerazioni di Schleiermacher sul linguaggio teologico testimoniano del distacco che egli sentiva nei confronti della sua giovanile esperienza filosofica kantiana. Nel secondo, Den Sendschreiben an Lucke, 1829, le due lettere aperte che sono spesso considerate il suo testamento teologico, Schleiermacher dichiarava che il linguaggio dei teologi non poteva essere quello delle scuole filosofiche, ma non poteva rinunziare a servirsi di quelle espressioni filosofiche che fossero diventate patrimonio delle persone colte. Ora, ed è curioso, non c'era niente da obiettare, gli dice, all'uso in teologia della terminologia wolfiana, dato che questa, a sua volta, era stata influenzata dal gergo scolastico, in modo che noi teologi non facciamo altro che rivendicare ciò che è nostra proprietà quando prendiamo in prestito vocaboli da lei. Invece, della filosofia kantiana e fichtiana, e qui vorrei notare che dire nel 29 filosofia kantiana e fichtiana voleva dire che Schleiermacher non era più tornato sul problema dai primi anni del secolo, dico, dalla filosofia kantiana e fichtiana si era ricavato poco, e qui l'annotazione un pochino ironica, persino il male radicale non ha soppiantato il peccato originale, no? E anche nel linguaggio della filosofia morale cristiana non è rimasto quasi nulla di quelle filosofie. Nell'ottica di Schleiermacher, ancora due pagine, questo poteva significare che quello di Kant e di Fichte erano parole senza intuizione, Worte ohne Anschauung, il che faceva sorgere qualche dubbio anche sulla loro forza teoretica. Questa lontananza mi fa sospettare che anche l'analogia spesso segnalata tra Gesù come Urbild in Kant e in Schleiermacher non vada molto al di là della parola. Ho parlato finora dei grandi pensatori, tra virgolette, ma va citato almeno anche un minore come Jakob Friedrich Frese, che per tutta la sua vita aveva deplorato la svolta speculativa e che aveva anche criticato Schleiermacher. Frese sarebbe molto interessante per il discorso sulla religione di Kant, ma io posso accennare soltanto un punto. Nella sua Storia della filosofia, il volume che ci interessa, il secondo, è del 1840, egli parlò diffusamente, con rispetto, del libro sulla religione, da lui considerata una integrazione, Ergänzung, della terza critica. Concludendo però che Kant aveva finito per impigliarsi, cito, in una forma di esposizione immaginifica nella quale lui stesso non sapeva bene in che direzione si andasse. Il tema del male continuava ad appassionare filosofi e teologi. Ne parlò più di una volta Franz von Baader. Ne parlò Karl Daub, il maestro a Heidelberg di Feuerbach. Nei suoi Theologumena, 1805, egli era su posizioni kantiane. Nel suo Judas Iscariot, 1819, l'opera espressamente dedicata a questo tema, dichiarò nell'introduzione di aver abbandonato le posizioni di Kant e di essere passato a quelle di Schelling, il che voleva dire anche ispirarsi a Jakob Böhme. Non sorprende che anche per Feuerbach il suo primo saggio di Storia della filosofia, 1834, è dedicato al problema del male in Jakob Böhme, quindi la nascita del problema moderno del male è Böhme e non è Kant. Karl Daub, che ho ricordato ora, era diventato molto amico di Hegel negli anni che questi aveva trascorso a Heidelberg. E all'insegnamento heidelberghese di Hegel si deve riportare un libro del 1822, Die Religion im inneren Verhältnis zur Wissenschaft, di Hermann Hinrichs, che anche in grazia di quel libro divenne professore a Breslavia e poi a lungo a Halle. I paragrafi in esso dedicati a Kant non sono originali, tradiscono anzi una utilizzazione massiccia della fenomenologia dello spirito di Hegel. Del libro sulla religione si discutono soprattutto spunti del secondo e del terzo capitolo, e in particolare le pagine sulla personificazione del principio buono e sulla Chiesa come società etica. L'idea base è che la prospettiva kantiana sia quella della ragione scissa in se stessa, che si estende, sich erweitert, alla, cito, universalità meramente formale del genere umano. Formale perché per operare, onde realizzare il fine ultimo della religione, occorre che si impegni il singolo individuo. Non c'è un protagonista oggettivo del programma di conciliazione. E la situazione non sarebbe migliore se il genere umano si costituisse in comunità etica, perché questa diventerebbe una necessità esteriore per gli individui. E per uscire da questa aporia che Kant ha introdotto, una, cito, individualità fittizia, Gesù, l'uomo sommamente morale gradito a Dio, che dovrebbe essere il modello, Hinrichs dice il cosiddetto modello, che l'autocoscienza razionale deve realizzare. Cito, in questo modo il fine ultimo del mondo viene collocato fuori, in un posto sbagliato, in una fede, cioè nella pura indeterminatezza e nella mera rappresentazione, di cui del resto fa parte a pieno titolo questa mera finzione. Alla religione di Kant fa esplicito riferimento un hegeliano indipendente come Ferdinand Christian Bauer nel suo celebre libro del 1835 di Christliche Gnosis. Ma lo fa in un modo curioso, che è testimonianza della difficoltà di inserire quel testo in un filone espositivo del quale ben altri erano i protagonisti. Kant si trova nella parte finale del capitolo su Schleiermacher, come fonte della distinzione schleiermacheriana tra coscienza sensibile e coscienza di Dio, che sarebbe in Kant l'opposizione tra principio cattivo e principio buono. L'unica differenza è che Kant chiama coscienza etica ciò che Schleiermacher chiama disposizione anlage religiosa. Nell'uno e nell'altro comunque sono in grado, secondo Bauer, di giungere ad una realtà oggettiva indipendente dalla coscienza. Cito ancora: il concetto di Dio è una mera astrazione, priva di ogni vitalità, simile al noumeno, per cui anche l'essere di Dio in Cristo non può essere né vivente né razionale, né personale, scusate. Più interessante, da parte di un grande storico della dogmatica, anzi della Chiesa, qual era Bauer, i cenni relativi alla religione di Kant nell'ottica di una storia delle religioni. Per lui Kant, malgrado abbia separato così energicamente il cristianesimo dalle sue origini ebraiche, rimane prigioniero di una religione della legge. Discepolo di Bauer era David Friedrich Strauss. La sua opera più ambiziosa, la Glaubenslehre del 1840, avrebbe voluto essere la riprova del motto che la storia del dogma è la critica del dogma. Pur essendo piena di informazioni, non ha però né il vigore un po' rozzo della prima vita di Gesù, né la robustezza del grosso trattato di storia del dogma trinitario del suo maestro Bauer. È comunque interessante quest'opera come testimonianza dell'appiattimento della immagine di Kant sul razionalismo. Kant viene menzionato con rispetto di regola una dozzina di volte, il libro sulla religione 5 o 6 volte. Dei testi kantiani ora si mettono in evidenza gli spunti critici, la riduzione di Gesù all'umano, la negazione della grazia, la negazione della materialità della resurrezione. Ora si nota che egli, Kant, è stato troppo riguardoso nei tentativi di interpretazione morale del racconto biblico. Nessun tentativo di mettere in luce quella che poteva essere la problematica specifica di Kant, di spiegare perché Kant avesse scritto un libro sulla religione. E poiché Strauss era tutt'altro che uno sciocco, questo può indicare soltanto che la questione non aveva più per lui il minimo significato. I cosiddetti hegeliani di sinistra potranno magari richiamarsi qualche volta a Kant contro la speculazione ubriaca, ma nello stesso spirito con cui si proclamavano eredi dell'Aufklärung contro la filosofia della restaurazione, quella di Hegel, da cui pure provenivano. Lo scontro non era più di concetti filosofici, bensì di immagini filosofico-politiche. È il ritorno a Kant che comincia a delinearsi già prima del 1848, è un ritorno al Kant della prima critica mutilata della Methodenlehre, non al Kant della religione, della quale comunque conta più la vicenda esteriore sempre citata, l'ennesimo scontro tra la libertà di pensiero e la censura, che non la problematica interna. Grazie. Dobbiamo essere grati al professor Cesa per questa sua interessante, ampia, nonostante che sia rimasto nei limiti prescritti dei 50 minuti. Nei limiti della semplice ragione. Dotta relazione sull'influenza della religione di Kant. interessante, soprattutto per il tema dei rapporti tra morale e religione, religione privata e non privata, è interessante anche per quella l'accenno che ha fatto sul tema del rapporto male-libertà. Ampia perché ha toccato numerosi temi e ha accennato a problemi e autori non sempre noti. Dotta perché ha mostrato una conoscenza specifica e ha dato informazioni difficilmente reperibili. A me personalmente ha interessato molto tutto il discorso sulla preghiera, Kant, Schleiermacher, su questo tema, perché posso dire che esso ritorna proprio come riferimento a Schleiermacher e a Kant nella teologia anglicana dell'Ottocento, in particolare la si ritrova nel reverendo Henry Mansell, kantiano di Oxford, e nelle sue lezioni di filosofia della religione, le famose Button Lecture del 1858.